Radio 24 Reportage. Futurismo e arti visive, in collaborazione con la Radio Svizzera Italiana. Il futurismo è un grande movimento antifilosofico e anticulturale di idee, in cui distinti pugni, calci, dazi, vecchiatori, purificatori, innovatori e velocizzatori, creato il 20 febbraio 1909 da un gruppo di poeti e artisti italiani geniali. Quando io dissi che bisogna sputare ogni giorno sull'altare dell'arte, incitai i futuristi a liberare il lirismo dall'atmosfera solenne piena di compunzione ed incensi che si usa chiamare l'arte con la maiuscolo. L'arte con la maiuscolo costituisce il clericalismo dello spirito creativo. Incitavo perciò i futuristi a distruggere e a beffeggiare le ghirlande, le palme e le aureole, le cornici preziose, le stole e i paludamenti, tutto il vestiario storico e il bric-à-brac romantico che formano una gran parte di tutta la poesia fino a noi. Propugnavo invece un lirismo rapidissimo, brutale e immediato. Un lirismo che a tutti i nostri predecessori deve apparire come antipoetico. Un lirismo telegrafico che non abbia assolutamente alcun sapore di libro e il più possibile sapore di vita. Claudia Salaris, critica e tra l'altro si è occupata da molto tempo di futurismo. Cominciamo allora a dare un piccolo quadro storico anche in ambito di futurismo. Siamo all'inizio del Novecento, grandi cambiamenti, politici in primis, una rapida trasformazione della società, guerre che si sono finite e altre che si stanno aprendo e grandi invenzioni che cambiano la vita di tutti i giorni. Ricordiamo il telegrafo senza fili, piuttosto che la radio, i primi dirigibili e poi gli aeroplani, i tubi al neon, quindi questo cambia completamente anche il concetto di vivere le città sono illuminate di notte, sono altri colori, tutto questo lo troveremo molto poi anche nei quadri del futurismo, arrivano le prime automobili e le automobili aumentano la loro produzione grazie alle catene di montaggio, ma ancora siamo di fronte alla nascita di una cultura moderna, molte scoperte si affacciano, pensiamo alla psicoanalisi, pensiamo al relativismo di Einstein piuttosto che al pensiero di Bergson e via citando. Il futurismo è stato indubbiamente, non possiamo negarlo, il più importante movimento artistico delle avanguardie storiche nell'Italia del XX secolo. All'epoca, però, è giusto anche dire che tutto questo venne guardato con poca considerazione, con molti sospetti. Marinetti venne definito un cretino con qualche lampo di imbecillità. Che cosa significava? Che l'Italia di allora era troppo arretrata per capire un fenomeno anche così internazionale? Ma perché questo ritardo nel apprezzare, nel capire, nel dare il giusto risalto a questo fenomeno artistico che invece oggi festeggiamo in pompa magna? Marinetti nel suo tempo non fu capito, ma oserei dire anche dopo, perché la rimozione nei confronti di Marinetti e del futurismo è stata veramente feroce, e penso al dopoguerra, rimozione dettata da motivi politici, ma a mio avviso non solo quelli. La cultura italiana permeata di idealismo non accettava l'avanguardia, e quindi io ritengo che la rimozione di tipo politico sia stata, diciamo, una vernice che copriva in realtà l'insofferenza che la cultura italiana ha avuto, ma ha, nei confronti dell'avanguardia artistica. Ed è sorprendente che il futurismo sia nato in una nazione ancora abbastanza arretrata come l'Italia, ma come diceva Marinetti, forse proprio per questo era necessario dare un grande scossone. Il futurismo non fu solamente un movimento artistico, ma è nato in poesia, si è allargato a tutte le arti, la pittura, la musica, il teatro, il cinema, la danza e via dicendo. ma è andato anche al di là dell'arte, anzi il suo vero, intimo e forte messaggio era quello di sforare, andare al di là dei settori artistici per investire direttamente la vita. Marinetti diceva: il futurismo è arte, vita, come se fosse un'unica parola. Significa che il futurismo intendeva attraverso la creatività in senso lato, quindi la creatività che si può esplicare nei settori artistici, ma la creatività in generale, attraverso questo bisognava cambiare l'esistenza di tutti. Non solo tutti gli uomini avevano diritto di essere creativi, ma la creatività era un valore proprio per trasformare dalle radici la psiche, la mente, l'uomo. Questo io credo che sia stato il grande messaggio di Marinetti, che è stato il fondatore della prima avanguardia, cioè del primo movimento d'avanguardia apparso nel Novecento. Gli altri movimenti sono venuti dopo. Quindi la grandezza di Marinetti è di aver per primo intuito quello che era il carattere dell'avanguardia, le sue modalità, la sua funzione. E poi, tornando all'Italia, è anche vero che grazie al futurismo l'arte italiana torna a dir la sua sulla scena mondiale dopo un lunghissimo oblio che era iniziato con il declino del barocco, perché da allora dall'Italia non veniva più niente di nuovo nel campo delle arti. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Non tutto ciò che viene fischiato è necessariamente bello o nuovo. Abbiate fiducia nel progresso, che ha sempre ragione, anche quando ha torto. Un'altra delle premesse per il futurismo in Italia è stato allora indubbiamente Milano di quell'epoca, che significava ad esempio la nascita dei nuovi immigrati che salgono a lavorare nelle industrie. Ricordiamo, non so, i tram elettrici, le centrali elettriche, piuttosto che, abbiamo detto prima, le città illuminate di notte grazie all'avvento dei neon. Cambia anche il modo di vivere quotidianamente la città, compaiono scene nuove, nel cielo ci sono le linee elettriche e si crea tutta una dinamica di movimento. E forse era impensabile pensare che il futurismo nascesse in un altrove che non fosse Milano. Certo, la città fa da sfondo al futurismo. È un movimento, diciamo, metropolitano che nasce dalla modernità e quindi il suo contesto naturale è senz'altro questo. Però non è del tutto giusto dire che il futurismo sia solo questo, perché Marinetti, nato ad Alessandria d'Egitto, quindi vissuto da ragazzo in un ambiente altro che arcaico, conserverà dentro di sé sempre il ricordo di questo mondo, mondo fatto di magia, di irrazionalità, di senso della religione, di senso proprio del tempo passato. Anche per disfarsi di questo retaggio, Marinetti farà il salto in avanti e sposerà con entusiasmo la causa della modernità. Tra l'altro si trasferisce molto presto a Milano con la famiglia, quindi questo scenario nuovo, affascinante, vertiginoso lo fagocita e gli dà l'input per inventare il futuro. Però questo mondo oscuro, magico, è rimasto dentro Marinetti, è rimasto nella sua poetica. Non solo, ma in Marinetti è anche molto forte l'idea proprio di non rompere i ponti con, per esempio, il mondo della natura, per esempio il mondo della provincia. Tant'è vero che fin dall'inizio Marinetti riesce a diffondere il verbo futurista un po' in tutte le regioni italiane e ben presto si formano nelle zone più lontane, più arcaiche, più arretrate, si formano dei nuclei di futuristi che aderiscono con grandissimo entusiasmo. Tant'è vero che il futurismo riesce a coniugare in maniera veramente straordinaria il progetto della modernità, ma lo aggancia ai valori proprio dell'irrazionalità, della fantasia, della passione. L'artista è chimico, fisico, architetto, soldato, pazzo. Sostituire la psicologia dell'uomo, ormai esaurita, con l'ossessione lirica della materia. In primis, per me il futurismo è far cadere i paraocchi, quindi non guardare le cose con idee preconcette. Questo per me è la prima lezione che il futurismo ha dato a me e credo debba dare a chiunque, al di là dell'estetica. Ho il piacere di presentarvi il nostro ospite. Lui è Pablo Echaurren, è un pittore, un artista, autore di fumetti, scrittore. Il suo modo di considerare l'arte, ma anche la sua concezione estetica, è stata considerata molto influenzata dal futurismo. Questo suo spaziare tra le arti, questo suo utilizzare anche le sensazioni, le emozioni, questo suo viaggiare così liberamente tra le varie tipologie dell'arte, ha fatto sì che il futurismo sia un genere che lei si sente molto vicino, che credo abbia molto influenzato anche il suo lavoro. Che cosa ha significato il futurismo per lei? Perché è stato così importante? E soprattutto, nell'ottica di queste grandi celebrazioni, come le vive lei? Come si sente per rapporto a queste celebrazioni, a questa importanza che viene così data oggi, in questo momento, in occasione del centenario? Quello che mi interessa del futurismo è stato lo sguardo vergine e nuovo sul mondo, sulle cose, appunto l'attraversamento dei settori separati dell'esistenza, il collegamento dei modi di fare in un'unica così betoniera, capace di impastare tutto e di rivomitare tutto con segni rinnovati. Per me Marinetti è stato fondamentale da un certo punto di vista, che è quello della legittimazione a chiunque a fare arte. In questo io sostengo che Marinetti è un pre-punk. Allora, cosa fu il punk a un certo punto della storia del rock, se non a un certo punto la rivolta di giovani ribelli nei confronti della musica così come si era andata formata negli anni 70, cioè di una musica estremamente pomposa, anche virtuosa, estremamente articolata, complessa, ben suonata. Marinetti questo fece sull'onda di una cultura ottocentesca molto accademica, molto interessata alle qualità decorative, alle qualità figurative, eccetera, eccetera, ha detto: si riparte da zero, se non sai la grammatica e la sintassi, chi se ne frega, ne scriviamo noi oggi una nuova di grammatica e di sintassi, se non sai dipingere, l'importante è il tuo stato d'animo nei confronti delle cose, l'importante è il flusso, l'importante quasi è il progetto rispetto all'opera anche. Quindi in qualche modo apriva la strada alla possibilità per chiunque di avvicinarsi all'arte. L'arte non era più confinata in un mondo di accademici e di addetti ai lavori.